Allora, noi ci chiamiamo, mi riconosci? Sono un professionista dei beni culturali e nasciamo come un collettivo nel 2015 e nasciamo da un gruppo, dalla volontà di un gruppo di studenti e di giovani professionisti o aspiranti tali di voler cambiare un po' la realtà lavorativa del settore. La molla, diciamo, che ti ha spinto a crescere poi nel tempo e a nascere è stata la legge Madia che nel 2014, per chi non lo sapesse, ha introdotto diverse novità per gli operatori del settore dei beni culturali e ha riconosciuto in parte legalmente molte figure, tra cui gli antropologi, gli agnosti, i bibliotecari, eccetera, soltanto che questa legge manca della parte attuativa che veniva delegata ai decreti successivi, per cui Mi Riconosci nasce come, diciamo, una semplice campagna per iniziare a dibattere su questi argomenti, però si estende anche su tutte le altre problematiche che coinvolgono il settore, per cui partiamo dal riconoscimento di queste figure, diciamo, fino alle condizioni lavorative, fino agli investimenti pubblici e tutto il resto. Diciamo che il settore è ancora abbastanza complicato, non è che sia cambiato tantissimo dal 2015. E quindi proprio per questo la domanda nel nostro nome, Mi Riconosci? Sono una professionista e un professionista dei beni culturali, è una domanda un po' ambigua. Come ambiguo ovviamente sono le sorti di noi lavoratori di questo settore. Ovviamente nel tempo poi ci siamo anche strutturati un po' come riferimento per tutti coloro che sono stanchi, quindi accettiamo dichiarazioni e via dicendo. Avete racchiuso proprio tutto il vostro lavoro di questi anni in un libro edito da Derive a Prodi, in uscita il 5 agosto, quindi tra poco. Che cosa troveremo, Eleonora, all'interno di questo libro? Allora, all'interno del libro che si chiama Oltre la bellezza, troverete tutta la nostra storia proprio dagli inizi. Tutte le nostre battaglie, passate, presenti e anche future. Inoltre, se volete porci delle domande o siete interessati anche a conoscerci, ci potete trovare in piccoli eventi che faremo proprio per promuovere prima dell'uscita il libro a Piave di Cento il 29 giugno presso il Museo Magi e il 1° luglio al Parco della Montagnola a Bologna. Citavi proprio anche tu il futuro. All'interno del libro ci sarà anche una proposta per il futuro per quanto riguarda appunto i professionisti e le professioniste dei beni culturali. Beh sì, assolutamente, anche perché noi ci teniamo molto a non volerci, tra virgolette, lamentare e basta, quindi tendiamo sempre a proporre delle cose. E una delle proposte più importanti che abbiamo fatto ultimamente, proprio in periodo di lockdown, è stata quella della creazione del sistema culturale nazionale, che non dovrebbe essere dissimile dal sistema sanitario, per cui si basa praticamente sulla gratuità per tutti. Sulla cultura come diritto per tutti i cittadini e quindi dovrebbe essere un sistema che raccoglie e coordina tutte le istituzioni culturali del paese, ma anche questo ovviamente si trova nel libro molto più dettagliato. Come dicevo, a noi ci preme molto anche fare delle proposte per cui siamo anche divisi oltre a livello nazionale perché raccogliamo professionisti, attivisti su tutto il livello nazionale e anche a livello regionale, per cui in particolare qui in Emilia Romagna abbiamo un gruppo attivo che cerca spunti e cerca anche di fare proposte proprio sul territorio, analizzando le problematiche specifiche del territorio e proponendo qualcosa di anche questo molto specifico per il territorio emiliano e bolognese in particolare. Perfetto, Eleonora, io ti ringrazio per averci raccontato la vostra associazione. Mi riconosci, sono un professionista dei beni culturali e il vostro libro in uscita il 5 agosto per Derive a Prodi. Grazie ancora, Eleonora. Grazie a voi, gentilissimi.